Se sapessi che tenian za coccia, ne vorresti un pezzo marì. Chi sta buono con tutta la goccia, se indovini sto cosa per te. Io lo saggio che pizzi marì, pensi a quello che non so per te. Quello che si pensato, te dicio che non è. Mari tu si sbagliato, non ci si pensato beh. Ma io pure connetto e te lo voglio di. Sto coso è no confetto e io tegno per te. Sto coso è no confetto e io tegno per te. Se io capo ci penso e ci goccia, o daresti saperlo marica. Sto coso che tegno in saccoccia è una cosa più dolce di te. Io lo saccia che pensi marì, pensi a quello che non si può dire. Quello che si pensato te dice che non è. Marì tu si sbagliato, non ci si pensato beh. Ma io pure connetto e te lo voglio di. Sto coso è no confetto e io tegno per te. Sto coso è no confetto e io tegno per te. Se sapessi che tegna za coccia, ne vorresti un pezzo marì. Chi ste buono con tutta la goccia, se indovini sto cosa per te. Io lo saccia che pinzi marì, pinzi a quello che non se vuoi. Quello che si pensato, te dicio che non è. Marì tu si sbagliato, non ci si pensato beh. Ma io pure connetto e te lo voglio di. Sto coso è non un vetto, io tegno per te. Ma io pure connetto e te lo voglio di. Sto coso è no confetto e io tegno per te. Ma io pure connetto e te lo voglio di. Sto coso è no confetto e io parto per te. Marì.